24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero e del tacchino per la bersanica. L'ha capito? Adesso farò un master in bersanese. Eccoci qui, cari italiani, sono le 6:34 minuti e ci siamo per concludere questa settimana di 24 mattino in diretta con voi fino alle 9. Se volete seguirci anche ci sono gli sms 349-238-6666. C'è la nostra Miriam Lucchetti in redazione, il nostro Carmelo Lauricella in regia. Ci siamo tutti, siamo qui, tutti pronti. Il consiglio è il solito. But please relax. Come sempre, anche perché mancano due settimane, tenete duro italiani, tenete duro! Oggi, per esempio, il mondo vi può sorridere, pensate che straordinaria notizia. Oggi è l'ultimo giorno in cui si possono pubblicare sondaggi. Da domani c'è la libertà. Oh, allora apriamo il nostro bar condicio. Non è una buona notizia? Il caffè volentieri a tutti quanti. Come avete sempre finito di rompere le palle con la Minetti. E la Minetti, sempre la Minetti. Non sapete parlare d'altro. Andate a lavorare, pelandroni. Vabbè, un po' di altro ogni tanto parliamo avete anche. Avete finito di romperle. Sì, vabbè, abbiamo capito, abbiamo finito con la Minetti. La Minetti che offre il caffè a Vladimir Luxuria, che ritroviamo con grande piacere. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Così come ritroviamo Paolo Del Debbio. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto, benvenuto. Ovviamente, non c'è quest'aria di libertà. Oggi tutti i giornali pubblicano i sondaggi. C'è chi dà Berlusconi dietro, Bersani avanti di 7 punti, chi di 6, chi di 6,6, chi dice che Grillo sta per fare il botto. Del Debbio, basta, da domani. Basta! Basta! Basta! Gliel'ho mandato. Questo è Oscar Giannino, che non so quando sta nei sondaggi, ma Del Debbio, da domani basta sondaggi, no? Da domani poi si aspetta le elezioni. Quindi meno male, meno dopo male. Dopo il sondaggio e le elezioni, insomma. Eh sì, effettivamente. Per un po' siamo tranquilli. Tra l'altro. Ognuno dirà la sua, tanto si sapranno lo stesso i sondaggi, perché li faranno tutti, circoleranno non nella stampa, però insomma. Però non si possono diffondere. Però non si diffonderanno. Non si diffonderanno. Sì. E tra l'altro oggi parla Beppe Grillo, è una rarità, lo fa al secolo XIX, quindi visto che è una rarità vi cito due cose di questa intervista. Dice: tra 6 mesi si andrà a votare di nuovo. Tra 6 mesi e lì faremo il botto in autunno. Insomma, di questa incertezza al Senato se ne parla. Vladimir Luxuria, è una previsione che condivide? Andremo a votare di nuovo, non si capirà niente, oppure ci sarà un vincitore? Questo almeno possiamo sbilanciarci. A parte che secondo me adesso la prossima settimana tutti saranno a chiedersi chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo, almeno per una settimana, però diciamo che è un'ipotesi secondo me non fantascientifica, assolutamente non fantascientifica, perché intanto ci sono non solo due competitor, ma ce ne sono tre, quindi c'è un centro-sinistra, c'è un centro, c'è un centro-destra, nessuno di questi tre ha delle percentuali, visto che oggi si possono pubblicare i sondaggi per l'ultima volta, insomma tutti e tre hanno dei buoni voti, hanno buoni consensi, quindi si rischia davvero di avere di una situazione in cui non si sa, per cui oggi ci sarà questo accordo tra il PD e Monti al Senato, per cui poi alla fine si va avanti, oppure effettivamente c'è si tornerà a votare. Sì, diciamo che c'è il centro-sinistra tra il 37 e il 38, leggo per esempio da Renato Mannheimer sul Corriere, il 30% al centro-destra, Monti al 13, sale Grillo, non viene citato questo in prima pagina, comunque Grillo viene dato per in risalita. Ma ieri vi voglio fare sentire Berlusconi in gran spolvero, dopo aver detto che Rosa Russo Iervolino aveva una voce straordinaria, per cui si curava dall'ornitologo, ha detto, insomma si sa le battute di Berlusconi, ha imitato Bersani. Bersani che abbaia. Berlusconi ha detto un'altra, lui lo fa con il dialetto, ma Berlusconi ha detto un'altra delle sue stronzate. Ma la stronzata di oggi è la più grossa di tutte. Ha detto che farà 4 milioni di posti di lavoro. Questo Berlusconi in serata ieri. Bersani era da Enrico Mentana, sentite come ha replicato. Non le chiederò di fare, io l'ho già detto gliel'ho già detto, di fare l'imitazione di Berlusconi, però beh, fuori dai cinque... Dovreste darmi cappello, cioè, se no, ce la faccio. Come ha dimostrato l'interessato, si può. Ma si può. No, invece voglio chiedere, ma la divertita, e questo aspetto, se... siamo fuori dai cinque minuti, sì. Questo aspetto di Berlusconi le piace o... Ma basta, voglio dire, da cabaret è forte, cioè uno da cabaret è forte, c'è un piccolo problema che non è tempo di cabaret. Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Insomma, Liza Minnelli è un po' così del debbio, cioè, in questa campagna elettorale. Ma lo fanno un po' tutti, ma no? Sì, Bersani ha ironizzato su quando ha detto Brunetta si alza, no? Che pure peggio, nel senso che ha ironizzato sulla statura di Brunetta, no? Quindi voglio dire, uno lo fa e bisogna che si aspetti, se uno dà una ciaffata poi si aspetta un'altra ciaffata, se uno non le dà non se l'aspetta. Però che sia un momento in cui fare un po' meno, come dire, cabaret, un po' meno battute, cioè gli italiani, io li vedo, capito, li vedo lì, li fanno tutti, no? Cioè Grillo fa i comizi a battute, ma per carità, sì. Monti fa quell'ironia che capisce lui e il cane. Empi ormai, e poi è diventato un mito. Bersani che imita Brunetta, dice si alza e poi ride, eccetera, dopo che l'hanno fatto altri. E Berlusconi che imita Bersani, cioè non è che facciamo la par condicio, non si scherza più. No, ma per carità, infatti, ma Vladimir la fanno chiudere, bar condicio qua chiude subito. Appena. Qui chiude immediatamente. Sì, infatti, c'ho quelli della G-Com, che è l'autorità, che mi dormono sullo zerbino. Qui, infatti, non so chi siano, io non li faccio mai entrare. Non li faccio mai entrare. Vladimir Luxuria, ma gli italiani cosa capiscono? Cioè, riescono a percepire il lato anche ironico? Le schermaglie da campagna elettorale, oppure secondo lei sono lì a dire ma basta, io voglio sentire parlare di lavoro, di pensioni, di cose che contano? Ma a me la seriosità non è mai piaciuta, mi piace la serietà dei politici. Si possono fare delle battute, non c'è nulla di male, lo fanno anche all'estero gli altri leader, quindi anche i nostri le fanno le battute. Altre volte le battute di Berlusconi mi hanno anche fatto ridere, questa volta devo dire che l'imitazione di Bersani gli è uscita particolarmente male. Deve prendere un po' la crozza. Come cabarettista, all'inizio ha fatto l'imitazione con l'accento milanese, no? Poi dopo si è corretto. Certo. E poi anche dopo, quando ci ha messo questo accento emiliano, sinceramente non somigliava molto a Bersani. Anche Berlusconi in qualche modo è anche lui un'imitazione, perché io più vedo Berlusconi in questo periodo così gonfio, più mi ricorda il fratello di Mao Zedong, quindi ognuno può essere l'imitazione di qualcuno e fare l'imitazione di qualcun altro. No, il fratello di Mao Zedong del debbio, abbiamo semmai Berlusconi ha delle cose più importanti da fare che ascoltare bar condicio, ma il fratello di Mao Zedong non glielo doveva fare questo. Vladimir Luxuria, no, non glielo doveva fare, però siccome ha tirato in ballo i comunisti, allora Vladimir Luxuria, Berlusconi ne ha detta una anche sui comunisti, sentiamola. Berlusconi che ha fatto il gioco delle mani con tutti gli invitati. Una mano quante dita ha? Due mani quante dita hanno? Dieci mani quante dita hanno? E io sono qui a pretendo di darvi lezioni di economia. Dieci mani, cento dita. Vabbè. Sembrate dei comunisti. Eccola lì del debbio. È un gran classico, no? Perché uno dice una mano, due mani, poi dieci mani, tutti cento! No! Ecco, siete dei comunisti, manco sapete fare i conti su dieci mani. Vabbè, insomma, quindi ha fatto anche la battuta sui comunisti. Allora, ci sono cose ben più... Se vuole leggere la questione di l'ultima è di Eni Saipem, della presunta tangente, eccetera, insieme al Montepaschi. Ma ieri, quando Sergio Rizzo sul Corriere della Sera ha scritto questo editoriale a dire Ma chi ha gestito, cioè chi gestisce le società? Per carità, sarà tutto da vedere, controllare. Il nostro management italiano, perché in Italia del debbio si sono permessi alcuni casi come Parmalat, accertati, alcuni da verificare, di scempio del bene anche pubblico, perché poi sono soldi tutti nostri. Ma come è possibile? Chi vigila in Italia? Dove sono i vigilanti? Sì, dove sono i vigilanti? Lì non è che sono entità astratte, perché si tratta di borsa, no? Si tratta di azioni, di obbligazioni, quindi non è che c'è. Ora, ho visto che Draghi ieri si è pronunciato sul Monte dei Paschi. Sì, oggi sì. Perché c'è stato un duro attacco del Wall Street Journal a dire ci sono stati 2 miliardi di finanziamento, esatto, al Monte Paschi quando Draghi era, insomma, Banca Italia. Che le due inchieste furono fatte, che fu a scrivere le due relazioni, eccetera. Sarà interessante vedere cosa c'è scritto in quelle cose lì. Perché Draghi non era ancora uscito e ora lo sappiamo. Perché se c'è stata una vigilanza, diciamo così, secondo le regole della Banca d'Italia, vuol dire che non vanno bene le regole della Banca d'Italia, sì. Perché vuol dire che non sono sufficienti. Se io posso anche credergli a Draghi, perché per ora ha dato anche buona prova di sé all'estero, però allora vuol dire che c'è qualche zona d'ombra dove la Banca d'Italia non arriva. No, perché anche la presunta tangente, questa invece dell'Eni con indagato Scaroni, che dice per carità io non c'entro nulla, assolutamente. Beh, ma quella sulla tangente. Sì, ma la presunta tangente, diciamo, sì, ma sapete quant'è la tangente? Oggi Il Sole lo scrive, 198 milioni di euro, di dollari, di dollari, cioè, che più o meno è la stessa cosa, 198 milioni di dollari, cioè di queste cose qui. Nel petrolio un po' di tangentine sono sempre circolate, sì. Si ricorda anche un altro periodo della nostra storia. E quelle sono le cifre, no? Ma li pagheranno poi in Vladimir Lussola, gli daranno barili di petrolio o soldi? No, gli danno i soldi. Soldi. 198 milioni di dollari. Io non... Sai cosa? Che si crea una forbice ancora maggiore tra la gente comune e poi questi grandi speculatori delle finanze, perché poi c'è il redditometro da una parte. E poi questi che fanno queste operazioni così, con tutti questi tangenti o presunte tangenti che siano. Anch'io sulla questione di Mario Draghi, sì, lui dice che bisognerebbe che abbia più autorità la Banca d'Italia, però insomma il fatto che non ci sia stata nessuna denuncia, cioè neanche, e che poi sia stato fatto questo prestito senza che nessuno dovesse sapere nulla, insomma qualche ombra la getta anche qualche sull'operato di Banca Italia. Sì, di Banca Italia qua bisogna capire o i poteri di vigilanza sono troppo limitati, oppure no, se non sono... c'è dubbio Milan che i poteri di vigilanza siano limitati e che gli strumenti di indagine siano spuntati, su questo non c'è dubbio, se no siamo al terzo ormai. Sì. Quindi lo so, però ci sono persone, anche il super testimone, per esempio Antonio Rizzo, che dice, beh, andate a vedere proprio il rapporto, quello del 2008, tra l'altro ha detto una battuta sul giornale che non è stata molto seguita, dice andate a verificare per esempio dall'attuale presidente della RAI, Anna Maria Tarantola, che allora era Banca Italia, perché lei vide quel rapporto, insomma c'erano scritto, chi lo sa, veleni anche che vengono diffusi. 24 mattino. Io sono sarda e devi vedere lo schifo che c'è qui, dipeso dai politici. Buongiorno, sono Dino, chiamo da Bologna. Non accetto questa superiorità morale detta dalla sinistra quando loro sono coinvolti 100 volte più della destra. Devono smetterla di credersi superiori. Ieri mi è capitata una cosa strana al bar che credevo impossibile. Ho sentito una signora, mia coetanea, che diceva che avrebbe votato per Silvia, così avrebbe recuperato i soldi dell'Imo. Mi è venuta voglia di prenderla per le spalle e sbatterla contro la parete del bar e dirgli, ma sei un idiota? Ma ci credi? Ma non è possibile. Altro che forcone. Qui ci vorrebbero baccate in testa. Nessuno parla più dei morti, pensionati, commercianti e tanti altri esseri umani che sono morti durante il governo Monti. Personalmente ho paura, io ho paura di lui e di tutti quelli che sono intorno a lui, anche per il domani. Vi do le coordinate della casa di Grillo, latitudine 4, longitudine 6, nord, verso Genova. Cari amici arabi, mandategli quella bomba che vuol mandare al Parlamento, così ce lo togliamo dai coglioni una volta per tutte e riusciamo a governare questo paese in maniera democratica, intelligente, ma soprattutto razionale. Caro Alessandro, poiché con le menzogne del professor Monti non torneranno mai i conti, voterò solo per Berlusconi perché mi salvi dal fango dei coglioni. Milan, spiegami una cosa, perché i partiti pagano l'IVA al 4% sulla pubblicazione dei cartelli elettorali e invece devo pagare il 21% di IVA sui pannolini di mio figlio? Forse perché fanno cagare anche i bambini? Allora, questa è la nostra segreteria telefonica, c'è chi dice di votare uno o l'altro, noi mettiamo un po' tutti, cerchiamo di rispettare anche qui la par condicio, ma insomma, del debbio ci accuseranno di dire ecco mettete questo, mettete l'altro. Non ne parli di accuse, lasci stare. Lo so. Allora, devo farvi ascoltare una cosa di Casini sui matrimoni omosessuali, perché ha fatto, insomma, ha detto, la domanda era, credo, RTL, ma in Europa si va in un'altra direzione, sentite Casini. Allora, l'Europa va però in direzione diversa. Sì, a parte che non è detto che l'Europa sia sempre comunque da imitare. Perché abbia ragione. Se noi prendiamo ad esempio alcuni paesi del nord Europa, hanno legalizzato dei movimenti che facevano anche apologia di pedofilia. Non credo che per questo sia un esempio da imitare l'Europa. Allora... Vladimir Luxuria non ha fatto il paese, non diciamo, non ha paragonato i matrimoni omosessuali, però ha detto il mantra dell'Europa, l'Europa non è che fa sempre delle cose positive, anche in quei paesi dove magari si legalizzano i matrimoni omosessuali ci sono anche lo sdoganamento della pedofilia addirittura. Beh, secondo me in questo periodo c'è la presunzione di superiorità. Cioè si pensa che noi siamo, questi pensano che noi siamo quelli giusti, quelli che fanno le cose giuste, quelli che difendono la famiglia, magari la famiglia hanno ben altri problemi a cui pensare perché non arrivano a fine mese, non perché c'è il timore dei matrimoni gay, ma perché ci sono altri problemi seri. Quindi si dice sbagliano l'Inghilterra, sbaglia la Francia, sbaglia la Spagna, sbaglia il Portogallo, sbaglia l'Argentina, sbaglia Obama, cioè sbagliano tutti e noi invece siamo dalla parte giusta. Poi a Casini raccomanderei un po' di cautela, perché lui che si richiama insomma ai valori della Chiesa, questi contatti così, credo che dovrebbe essere la Chiesa Cattolica a fare, posso dire, un po' più di giustizia interna sul tema della pedofilia e non confondere i matrimoni gay con la pedofilia, che sono due argomenti che non c'entrano assolutamente gli uni con gli altri. L'ha fatto come paradosso. Adulto, consenziente, e diamo la libertà a due persone maggiorenni e libere di potersi vedere riconosciute nei loro sentimenti, nei loro progetti, nelle loro speranze anche dallo Stato, dal punto di vista affettivo. So che Del Debbio ha un approccio molto laico su queste, ma un approccio laico su queste cose in Italia Del Debbio non ci sarà mai. Purtroppo no, anche perché penso una cosa, guardi, che se ci fosse stato nel senso di questa contrapposizione anche nominale, no, matrimonio sì, l'unione sì, ma il matrimonio, se avessero fatto una cosa che consenta, faccio l'esempio, diciamo, Vladimir Luxuria parlava di esempi in positivo, no? Cioè realizzare il proprio progetto di vita, eccetera. Io voglio fare esempi in negativo, cioè persone che si trovano all'ospedale, come è successo anche di recente a quel famoso narratore italiano, insomma, che ancora c'ha dei problemi, eccetera. Ecco, sono cose quelle lì che non fanno veramente arrabbiare. Cioè avere il diritto anche da coppie dello stesso sesso di poter, per esempio, dire, avere notizie in ospedale. Di diverso sesso, cioè, siamo, capite, è una situazione che fa incazzare anche uno che non ha, diciamo, ideologicamente non è... Anche per me, insomma, che non è il mio primo dei... se dovessi governare io non sarebbe il primo dei miei problemi. Però fa arrabbiare questa incapacità di affrontare però queste molto cose. Arrabbiare, allora, no, perché ma insomma, dai sta riconoscimento, dopodiché, perché poi non c'è nulla da riconoscere. No, ma c'è solo da riconoscere un diritto. È sulla questione, però, matrimonio e adozione è una roba che si va più là. Ma io devo chiudere il bar condicio, io vi devo far sentire il nostro mitico contadino di Terni. So che ieri l'ha utilizzato anche Giuseppe Cruciano della Zanzara. Ne vogliamo creare un personaggio, quello della zappa, quello che propone la zappa da 7 kg ai politici. Sentite, La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a Zappalucampo dalla mattina alla sera e a pranzo una cipolla e un pezzo di pane duro, e a cena una minestra scunnita. Ecco, questa sarebbe la ricetta, ma poi ci ha richiamato e ha rilanciato. Signore Milan, che potremo fare qui? Manco Santo Giuda, lo padrone delle cause perse, ci serve più. La zappa non basta più, la mazza da 10 kg e spacca la pietra sulla cava. Ecco, questo devono fare. Ecco, questa così, Del Debbio e Luxuria. Più dico, spero che si fermi qui, insomma. No, ma siamo... dico, è vero? Sì, è verissimo. È vero, il contadino di Terni che ci chiama la segreteria telefonica, è verissimo, è straordinario. Lo voglio nella mia trasmissione di lunedì, me lo manda? Sì, le diamo il numero di telefono. Va bene, grazie a Paolo Del Debbio e Vladimir Luxuria per essere stati con noi e ci ritroviamo dopo il genere delle 7. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci alle 7:20 minuti, siamo pronti a leggere i giornali. Prima vi ricordo gli ospiti, come di consueto, del menù. Delle 8:15, 8:30 avremo alle 8:15 Antonio Verro, che è membro del CDA della RAI. Una settimana dall'inizio di Sanremo, qualche giorno dall'inizio di Sanremo, ma poi c'è anche la sua vicenda personale, lui è anche candidato e membro del CDA della RAI. Parleremo poi di giustizia, abbiamo titolato Tra ragione e sentimento, una pagina che vogliamo aprire. Alle 8:30, insomma, si è tornato a parlare di amnistia in questi giorni. Molti ascoltatori ci hanno chiamato a dire sì, ma tutti attenti a difendere Caino, e Abele invece chi lo difende? Le vittime chi le difende? Avremo ospite oggi il padre di Mariangela Pezzotta, una delle vittime delle bestie di Satana, Silvio Pezzotta, per il caso dell'autrice del delitto Elisabetta Ballarin, che ha ottenuto anche una borsa di studio. Avremo anche ospite il procuratore capo di Aosta, Marilinda Mineccia, ricordate le polemiche qualche giorno fa per un caso di una persona che ha travolto due mamme, due neonati, e quella persona si è detto doveva essere arrestata perché era stata accusata di una rapina il giorno prima. Insomma, giustizia, appunto, tra il sentimento, il giusto dovere di recuperare gli autori dei reati, ma anche la tutela giusta della società e delle vittime. Di questo parleremo alle 8:30, ora andiamo a sfogliare i giornali in edicola. È venerdì, coraggio, 8 febbraio. E allora i titoli, il Sole 24 Ore, BCE, la forza dell'euro mette a rischio la ripresa, questo è il titolo di apertura, affiancato anche dall'inchiesta Saipem, indagato Scaroni, io estraneo, già licenziati i vertici. Poi è l'ultimo giorno, come abbiamo detto, in cui si possono rivelare i sondaggi in previsione delle elezioni. Allora molti giornali si concentrano su questo e hanno un sondaggio da proporre. Corriere della Sera, distacco ridotto tra i due poli, centro-sinistra avanti di 7 punti. La Stampa, Grillo boom, partiti in allarme. Il Fatto Quotidiano, ingroia Giannino, Grillo, i tre guastafeste. Il Messaggero, Senato senza maggioranza, questo il titolo. Mentre Avvenire si concentra sull'appello di Bagnasco, gli italiani meritano solo la verità. Per Repubblica l'apertura è tangente algerina, indagato Scaroni. Libero invece se la prende coi sindacati, non solo Montepaschi, i sindacati barano 200.000 iscritti finti. L'unità, pagare i debiti alle imprese. Bersani, troppe aziende chiudono per i ritardi di Stato. Il giornale invece se la prende con Sanremo, trappola a Sanremo, sarà il festival del Partito Democratico. Il Manifesto invece se la prende per Italia, il fondo unico dello spettacolo di altri 20 milioni, giù il sipario, penalizzati musica e cinema. Vi piace questa politica da cani? Non è una battuta, o meglio sì, è una battuta ovviamente a doppio senso, ma troverete tanti titoli oggi dedicati proprio a questo, e cioè il fatto che, insomma, è abbastanza notorio, Berlusconi ha adottato un cucciolo di cane. Monti è andato da Daria Bignardi, gli hanno piazzato in braccio un cucciolo di cane, anche lui l'ha adottato. E allora è impazza un po' il dibattito anche su queste scelte, che guardate non sono del tutto secondarie. Oggi vi invito a leggere Marcello Foa sul giornale. Empi, Sox, Milli, quando gli animali si infilano nelle urne, è un'analisi che parte dagli Stati Uniti, dove il tema è molto serio, molto più serio di quanto si possa pensare. In America, scrive Foa, gli americani di una certa età ricordano ancora il nome del cane di Nixon, Milly, e non a caso uno studio dimostrò che il barboncino nero del presidente repubblicano era citato in televisione più di qualunque altro ministro. Se oggi citate il nome Sox, molti cinquantenni, anche in Italia, vi diranno che era il gatto di Bill Clinton, il quale aveva anche un Labrador. George Bush di cani ne aveva due, quando uno si rifiutò di salire sulla scaletta dell'Air Force One. Di fronte ai fotografi che immortalarono la scena, la sua popolarità aumentò di 2 punti. Obama, quando fu eletto, non aveva animali in famiglia, ma dopo poche settimane i suoi consulenti gli consigliarono di regalarne uno alle sue figlie, e per presentare Bo, questo è il nome del first dog, fu organizzata addirittura una conferenza stampa sul prato della Casa Bianca. E insomma, la prende dagli Stati Uniti Marcello Foa per ricordare che la questione per alcune è molto seria, anche se la critica è che la mossa degli spin doctor in Italia per avere l'effetto tenerezza qui forse non basta. Qui c'è un po' l'ironia. E allora guardate un po' di titoli. Il Corriere della Sera, tra prof e cav, sfida dei cani. Oppure Il Quotidiano Nazionale, l'ultima dei candidati, il cane elettorale, ma vanno forte anche nipotini e nonne. L'Unità, basta politica da cani, dopo Pughi, Empi. E Pughi è il nome del cane adottato da Berlusconi, Empi, che ricorda l'empatia su cui si è molto giocato, quello adottato da Mario Monti dopo la trasmissione da Daria Bignardi. E su Twitter impazza ovviamente l'hashtag YesWeCane. E vabbè, insomma, e c'è anche Vittorio Feltri che oggi dedica l'editoriale di prima pagina, il suo commento a questo tema. Il titolo dell'editoriale di Feltri è Benvenuti i cani in politica. Alcuni giorni fa Silvio Berlusconi, tra l'altro per inciso io ho fatto una battutaccia sul mio profilo Twitter, Benvenuti i cani in politica, ma non c'erano già. Vabbè, Alino Milan nel mio profilo Twitter, potete insultarmi lì. Alcuni giorni fa, scrive Vittorio Feltri, Silvio Berlusconi ha adottato un cane per intercessione di Michela Vittoria Brambilla, più nota come fervente animalista, che come ex ministro del turismo. Subito dopo Mario Monti ha fatto la medesima cosa, l'unica differenza è che offrirgli la bestiola è stata Daria Bignardi, la stessa signora che durante una puntata del suo programma cercò di sfottermi perché sul display del cellulare avevo, e ho ancora, l'immagine, ricordo, del mio gatto Ciccio, morto 4 anni fa. Buon segno anche la conduttrice, passando dal disprezzo per il felino in effigie alla tenerezza per il cagnolino vivo, si è evoluta. Ma il problema è un altro. Vari osservatori criticheranno l'ex premier e il premier in carica, dicendo che pur di strappare un pugno di voti sfruttano i cani, l'affetto per i quali rende simpatici. C'è poi chi deplorerà Monti perché ha pedestremente imitato Berlusconi per non perdere punti, ma stavolta ci dissociamo da simili polemiche. Chiunque manifesti amore per gli animali merita attenzione e stima, perché dimostra di avere cuore e cervello. Le bestie, infatti, possono benissimo fare a meno degli uomini, mentre gli uomini non possono fare a meno di esse. Chi non afferra questo concetto è un demente. Così Vittorio Feltri, che poi continua il suo editoriale, diamo il benvenuto ai cani in politica. E insomma, si guadagnano, o forse si perdono, o si cerca di conquistare anche dei voti, è inutile negarlo, è tutta una strategia di comunicazione, d'immagine, anche così. Ieri invece è stata una giornata in cui dal Partito Democratico, per la verità da una manifestazione del Partito Democratico, è partito un attacco a Pietro Ichino, fatto e portato avanti la protagonista di un intervento, Chiara Di Domenico, precaria, addetta stampa e factotum a progetto di una piccola casa editrice romana, Orma, che ha attaccato nella sede appunto del Partito Democratico il giuslavorista ex del Partito Democratico, ora passato a Monti, Pietro Ichino. Perché? Perché ha fatto questo attacco parlando di lavoro, di precariato. La verità è scandalosa, ha detto questa ragazza, ma lo status quo è osceno. Sono stanca di vedere assunti i figli di, i fratelli di, e tutto passa sotto silenzio. E poi ha fatto un nome, Giulia Ichino, 23 anni, figlia di Pietro Ichino, già redattore interno alla Mondadori. Ecco qui che si è scatenato il putiferio. Ichino, un nepotista, la vendetta del PD è servita, titola per esempio Il Secolo XIX, la pagina 3, ed ecco che diventano protagoniste queste persone, e cioè Chiara Di Domenico, intervistata dal Secolo, che dice: io non ho niente contro di lei, contro Giulia Ichino, ma il suo caso è unico in Italia, assunta a 23 anni, ha sostituito Antonio Franchini a capo della narrativa, e a quell'età non è un caso raro, ma unico in Italia. Potrebbe certo difendersi dicendo: sono brava, mi sono meritata quel posto, ma noi non potremo mai saperlo, perché l'editoria non è un settore meritocratico. Qui aggiungo un'altra parentesi: e quale settore è meritocratico in Italia? Chiusa parentesi. Ovviamente Giulia Ichino risponde, intervistata da Repubblica, all'accusa Ichino nepotista. La figlia dice: no, fortuna, sono fortunata ma non raccomandata, dice la 35enne Giulia Ichino, intervistata da Matteo Pucciarelli a pagina 12. La domanda ovviamente è: ci ha messo lo zampino suo padre nell'assunzione a Mondadori? Allora non era un uomo politico conosciuto, avessi voluto avrei studiato nel campo di famiglia, la legge. Il mio percorso è raro ma trasparente per chi mi conosce. Vivo con un certo disagio la mia fortuna. Certi riferimenti sono stati sgradevoli. Non rappresento l'unica storia di giovane che ce la fa o no. Assieme a me vennero assunti altri ragazzi, mica solo io. Conosco le amarezze e le difficoltà dei miei coetanei. Sono stata privilegiata come una qualsiasi ragazza della borghesia cittadina che ha avuto la possibilità di studiare e viaggiare. Ma insomma, dice, non sono una raccomandata. Ichino nepotista, la figlia risponde: no, fortuna. Ma certo, questa contestazione da parte di una precaria alla manifestazione del PD ha sparso anche un po' di veleno su questa campagna elettorale, sul tema molto molto caro in realtà, partendo da una storia singola del lavoro, il precariato dei giovani e il futuro, la possibilità di avere un posto di lavoro sicuro. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, due ultime settimane di campagna elettorale, oggi l'ultimo giorno e tra poco vedremo in cui si possono diffondere i sondaggi. Ho già alle 6.30 l'ho detto, che non sentirete da domani quel profumo antico della libertà. Basta questi sondaggi, non se ne può più. Ognuno propone il proprio sondaggio, poi tra due settimane si vedrà alle urne. Comunque, voglio iniziare da due interviste, perché sono due personaggi che raramente parlano. Uno quasi mai, anzi praticamente mai. Beppe Grillo e Paolo Crecchi, che è un grandissimo intervistatore, scrive sul Secolo XIX, l'ha intervistato. E Beppe Grillo, ecco qui che parla in prima pagina del Secolo: fra sei mesi si rivota. Questo è il titolo di prima pagina del Secolo XIX. Questa è la previsione ovviamente del leader del Movimento 5 Stelle. Metto i politici a dieta così potremo aiutare tante piccole imprese. Ecco qui Beppe Grillo: è solo questione di tempo, se non facciamo il botto subito lo facciamo in autunno, restando così la situazione torniamo alle urne tra sei mesi. Poi conferma: punteremo a Dario Fo come nuovo presidente della Repubblica, uno degli uomini più lucidi che abbia conosciuto. Poi parla del Parlamento: ci vorrebbero analisi psichiatriche, non politiche. Ricordate quel film di Kubrick con lo scrittore che scriveva sempre la stessa frase: il mattino ha l'oro in bocca, il mattino ha l'oro in bocca. Shining. Ecco, il parlamentare fa lo stesso, dice Grillo, visto il comma 5 dell'articolo 6 del paragrafo 8. Per forza poi va in televisione perché si sente frustrato e i talk show organizzati dai conduttori dei partiti sono lì apposta. Poi vabbè, parla del programma, è un'intervista anche proprio concentrata su quello che faremo. Abbiamo 20 punti, tra cui il reddito di cittadinanza, la pensione massima 5.000 euro lordi, una sola rete televisiva di Stato senza pubblicità ai partiti, l'obbligo del Parlamento di discutere le leggi popolari, l'introduzione dei referendum propositivi senza quorum. E poi attacca invece gli avversari su Bersani. Perché lo chiama Gargamella, chiede Paolo Crecchi? Perché è il mago cattivo dei puffi, che non sbrana ma succhia la felicità dei puffi, dai quali ricavare oro purissimo per diventare il più grande mago del mondo. Fallisce sempre. A Monti invece rimane sempre un contabile, l'ho visto, cerca di umanizzarsi con il salotto dei nipotini, ma vengono prima i numeri che le persone, ai bambini è capace di rubare le caramelle. Stia attento, gli chiede Crecchi, lei ha 86 processi a carico. Sì, 4 intentati da me, 82 contro, ne ho subito uno per un fatto avvenuto in Valsusa, vicenda TAV, rottura di un sigillo portato via dal vento. Poi si capisce perché in Italia ci sono 9 milioni di processi in sospeso. Non c'è, devo dire, nessun riferimento alla vicenda per la quale evidentemente non vuole parlare, se non pubblicamente, dell'incidente che lo portò nell'81 a una condanna per omicidio colposo e di cui ha parlato Vanity Fair intervistando una delle persone sopravvissute di quella famiglia. E, mentre l'altra intervista è Umberto Bossi, in realtà non è proprio un'intervista ma è un libro che sta uscendo, è fatto dal cronista di Libero Matteo Pandini, che quindi anticipa in questo ebook anticipa l'intervista a Bossi, che accusa c'era Gianni Letta dietro i guai della Lega. È un libro intervista oggi su Libero, trovate appunto delle anticipazioni. Bossi che torna sulla vicenda Belsito dicendo ci hanno accusato, ha speculato qualcuno, e fa il nome e cognome Gianni Letta. Perché? Perché i servizi segreti sapevano che Belsito aveva collegamenti con l'Andrangheta e non ce l'hanno detto. E alla risposta, ma scusi, ma c'era Maroni, ministro dell'interno? No, secondo me passa tutto dei servizi segreti attraverso Palazzo Chigi, non c'entra neanche Berlusconi, ma Letta, a Palazzo Chigi dirigeva Gianni Letta. Questa è l'accusa specifica di Bossi, che poi parla anche dei figli, spesso si commuove quando parla anche di Renzo, il trota, il più tartassato, dice si commuove, è lontano. Gira voce che sia andato in America, chiede Matteo Pandini. Non lo so, è lontano, ma non so dove sia andato. Questo è Umberto Bossi su Renzo, il figlio. E, sondaggi, per l'appunto. Trovate sondaggi dappertutto, ognuno lo propone. Roberto Dalimonte fa un'analisi di sondaggio Ipsos per il Sole 24 Ore, trovate a pagina 13. Si parla di un Berlusconi che effettivamente è risalito, guadagnando circa un 4% nell'ultimo mese, con una campagna elettorale molto serrata, ma dice e scrive Dalimonte, separano ancora la coalizione guidata da Bersani da quella Lega PDL 6,6 punti percentuali in favore del centrosinistra. Due settimane fa però la distanza era di 10,8 punti, dunque Berlusconi secondo questo sondaggio ne ha recuperati 4,2, ma rimangono ancora da recuperare più di 6 punti in un tempo limitato. E Dalimonte si chiede, è un'impresa possibile? E poi c'è un'analisi, la coalizione di Bersani viene data alla Camera al 34,9, la coalizione Monti al 15,3, coalizione Berlusconi al 28,3, il Movimento 5 Stelle 15,8, Rivoluzione Civile invece il 3,7. Più incertezza al Senato, tanto che il Messaggero titola al Senato non si governa, c'è grande incertezza, il titolo di prima pagina del Messaggero è proprio questo. E il centro-sinistra viene dato 7 punti avanti, Grillo viene dato per terzo, il boom a 5 Stelle è accreditato anche dal Fatto Quotidiano nei sondaggi e addirittura dalla Stampa, tanto che la Stampa titola in prima pagina sul boom di Beppe Grillo. C'è anche l'analisi di Ugo Magri, il cavaliere e l'incubo del terzo posto, questo è il titolo dell'articolo di Ugo Magri. Terzo dopo Grillo è l'incubo di Berlusconi. Berlusconi che dice ho messo la freccia del sorpasso, annuncia gasatissimo, questo nell'articolo di Ugo Magri che trovate in prima pagina della Stampa. Però intanto Berlusconi tiene un occhio incollato allo specchietto retrovisore, in quanto sulla scia è spuntato Grillo. Il bolide dell'ex comico guadagna terreno secondo i sondaggi cresce infatti un punto e mezzo a settimana. E quando ne mancano due al traguardo, Berlusconi deve cambiare marcia se vuole difendere la seconda piazza del suo partito, che sta un filo sopra il 20%, col Movimento 5 Stelle un filo sotto. Arrivare terzo per Silvio, sai che smacco sarebbe. Quindi a meno 16 giorni dal voto, secondo la stampa, è un Beppe Grillo che sta rimontando. Vabbè, da domani queste notizie non le leggerete più sui giornali, magari ci sarà anche qualcosa sui programmi, magari, ma è certo sui sondaggi non leggerete più niente, è vietato per la legge che norma la campagna elettorale leggere queste cose, divulgare i risultati dei sondaggi. Oggi è l'ultimo giorno, per questo ne troverete un buffet ricco sui giornali. I vescovi, ha parlato ieri il cardinale presidente della CEI Angelo Bagnasco, per l'Italia lavoro, famiglia e riforme, questa la ricetta, scrive Avvenire a pagina 8, la gente non si fa più abbindolare, c'è questa frase che viene lanciata un po' da tutti i giornali, ha accusato contro il relativismo sui valori che può aprire una voragine, sul matrimonio ha ridefinito la possibilità di non stravolgere la realtà ridefinendolo, e sarebbe questo un arretramento di civiltà. Insomma, questo prende molti titoli sui giornali, vescovi, gli italiani non si faranno abbindolare, questa è la frase che trovate di più. Mentre per quel che riguarda la campagna elettorale è stata, insomma, un botta e risposta, il lite sui posti di lavoro, ce ne saranno 4 milioni, ha detto Berlusconi, poi ha detto è solo un'ipotesi, Bersani ha parlato di cabaret, c'è da dire che Berlusconi, poi l'abbiamo sentito alle 6:30, ha imitato Bersani, Bersani ha replicato questo è cabaret puro. Vabbè, schermaglie la campagna elettorale. C'è anche un Renato Brunetta intervistato da Libero infuriato, perché Bersani ha confermato c'è la possibilità di pagare le imprese, i debiti arretrati delle imprese con titoli di Stato, una cosa che raccoglie anche il plauso del vicepresidente di Confindustria Ivan Lobello, intervistato da Marco Ventimiglia sull'Unità. Il titolo dell'intervista è: per far ripartire l'economia italiana occorre fissare nuove priorità, perché dice il vicepresidente di Confindustria il lavoro non si crea col decreto legge ma viene favorito da diverse politiche orientate alla crescita. Comunque Bersani ha ribadito 50 miliardi a disposizione per i debiti con le imprese. E perché dicevo infuriato Brunetta? Perché pare che fosse proprio questa la proposta shock allo studio nuova di Berlusconi. Ieri io l'ho detto dicendo su Libero, dicendo ma come, l'ha anticipata già Bersani, e infatti Brunetta è arrabbiato per questo. Libero conferma, il Cavaliere però rilancia, non 50 ma 100 miliardi pronti per le aziende, c'è un piano per saldare i debiti della pubblica amministrazione mediante emissione di nuovi titoli. E al fatto che Bersani l'abbia già anticipato, sentite come reagisce Brunetta su Libero: copioni, falsari, buoni a nulla. Quando Bersani ha parlato, la nostra proposta era già stata annunciata da Berlusconi all'Associazione dei Costruttori, anche Antonio Tajani ci sta lavorando da tempo in sede europea. Poi spiega la proposta, ma insomma adesso partirà la disfida sulla paternità di questa proposta per dare i soldi alle imprese. Facciamo così, chiunque vinca li dia, e poi così magari al di là delle proposte la cosa concreta è quella che conta. E allora eccoci qua, l'inchiesta Saipem, 8 indagati per corruzione, scrive Stefano Elli, l'articolo che trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore, la notizia è anche in prima pagina, riguarda le presunte mazzette in Algeria. L'amministratore delegato dell'Eni Scaroni è indagato dalla Procura di Milano. Le presunte tangenti legate all'attività di Saipem in Algeria, e l'inchiesta è corruzione internazionale che riguarda altri 6 dirigenti del gruppo e un intermediario. La stessa Eni è indagata, hanno affermato dalla capogruppo Eni la totale estraneità della società, dell'amministratore delegato, dei dirigenti, si è parlato già di vertici dell'Algeria che sono stati rimossi. Comunque i dettagli li trovate appunto nell'articolo a pagina 3, ammonta a 11 miliardi il valore totale delle commesse in Algeria, per ottenere le quali la Saipem avrebbe versato tangenti all'estero, e c'è anche la cifra, e udite udite, si parla di tangenti contestate per 197.934.798 dollari, insomma arrotondando 198 milioni di dollari. Questa è la presunta tangente su cui indaga la Procura di Milano. C'è anche uno straordinario articolo di Claudio Gatti che trovate sempre in prima pagina e poi continua a pagina 5. È impossibile da riassumere nel poco spazio a disposizione, perché è vero, racconto di una specie di spy story, la valigia dei misteri, i soldi dello sceicco. È un qualcosa che mette insieme alcuni personaggi chiave di questa vicenda, vale a dire intanto il mediatore Farid Bejaoui, consulente finanziario algerino attivo tra Canada, Dubai e Libano, insieme a Varone, che fa parte di Saipem, insieme a Deborah Somaschini. E mette insieme una valigia di misteri, presunti contatti, insomma davvero una vera spy story che riguarda anche una società che investe nel vino in Campania, la Ager Falernus. Ve lo segnalo, il caso Algeria è un'inchiesta che racconta quelli che sarebbero gli accordi del mediatori per quello che ha portato poi alla presunta mazzetta per le maxi commesse in Algeria. La valigia dei misteri, i soldi dello sceicco, ecco tutte le mosse del mediatore Farid Bejaoui, il ruolo di Varone per Saipem, i conti a Ginevra e la società vinicola Ager Falernus. Lo trovate sul Sole 24 Ore in prima pagina e continua poi tutta pagina 5. Si difende il presidente dell'ENI. Il presidente dell'ENI, Giuseppe Recchi, 48 anni, intervistato da Stefano Agnoli sul Corriere della Sera, lo trovate a pagina 13. Quella è un'azienda indipendente, vale a dire Saipem. Se ho sentito Scaroni, certo che l'ho sentito, è sempre in viaggio a seguire tanti progetti del gruppo ENI, l'ho trovato tranquillo e sereno. Siamo totalmente estranei per due ragioni. La prima è che siamo due società quotate che di conseguenza hanno vincoli stretti di regole e comportamenti, previsti non solo dal codice di autodisciplina della borsa, ma anche dal testo unico della finanza. In Saipem ci comportiamo da soci come tutti gli altri, teniamo sotto controllo i conti ovviamente, ma non entriamo nel merito delle commesse e dei progetti. Dunque Eni dice: siamo soci di Saipem, ma siamo totalmente, ci comportiamo così, ma non entriamo poi nel merito delle loro strategie. Luca Pagni su Repubblica racconta la giornata difficile di Scaroni, e c'è anche questo virgolettato a lui attribuito: ma quale faccendiere, il faccendiere che abbiamo citato prima, che lavora Bejaoui, no? Quel signore di cui si parla nelle carte l'ho incontrato una volta nella vita e solo per pochi minuti. Mi è stato presentato come il segretario particolare del ministro algerino dell'energia, mi ha accompagnato e non l'ho più visto. A chi gli chiede una replica, insomma, questa è la replica di Paolo Scaroni, che quindi non nega l'episodio, l'incontro che lo trascina nel vortice di questa bufera giudiziaria, ma si limita solo a questo. L'altra vicenda è Montepaschi. Ebbene, sono stati sequestrati altri 18 milioni, come fa sapere Sara Monaci sul Sole 24 Ore a pagina 24. Altro giro di sequestri intorno alla vicenda giudiziaria. C'è da dire, girano i soldi. 40 milioni ieri, 18 milioni di euro sequestrati oggi. E tra l'altro le critiche, le accuse, in questo caso finisce e ha dovuto difendersi nella bufera Mario Draghi. Lo ha tirato in ballo anche il Wall Street Journal, dicendo che insomma ci furono 2 miliardi di prestito all'epoca in cui era Banca Italia per il Monte Paschi. Mario Draghi si è difeso dicendo: Banca Italia fu corretta, fu veloce, firmai io le ispezioni. Pagina 2 del Fatto Quotidiano con Marco Franchi, l'attacco è molto duro: prestito da 2 miliardi, Draghi nel frullatore Monte Paschi. La banca italiana venne aiutata da un prestito nascosto, questo è il titolo del Wall Street Journal, che ha fatto finire l'ex governatore Draghi, oggi a capo della Banca Centrale Europea, nel frullatore del caso Monte Paschi, scrive il Fatto. L'istituto Senese, scrive infatti il quotidiano americano, era così a secco di liquidità alla fine del 2011 che dovette negoziare un prestito di liquidità da circa 2 miliardi di euro con Banca Italia. E qui si è difeso appunto Draghi dicendo: facemmo tutto in maniera assolutamente regolare. E qui il tempo vola, c'è tempo per leggere chissà qualcosa? No, c'è la cena a Venezia, hanno spennato in pizzeria mettendo 2 gamberetti in più o 2 scampi. due danesi, arrivando a 600 euro di conto, un gran classico, no? Mettiamo due scampi di frittura, sì, conto a Venezia per 2.600 euro. Solo che questi erano due diplomatici danesi e hanno attivato la Farnesina, ci stanno facendo un mazzo così, cioè nel senso che stanno portando a livello internazionale lo scandalo. Spennate in pizzeria 600 euro per un fritto, è un caso diplomatico, leggo il titolo del giornale a pagina 17 e vi do appuntamento dopo il giornale radio. Ventiquattro mattino, l'Italia si desta. Sono le 8:15, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua a parlare con i nostri ospiti, primo dei quali è un consigliere di amministrazione della RAI, Antonio Verro, che saluto. Buongiorno, dottor Buongiorno. Verro. Eccoci. Buongiorno a tutti. Allora, inizia Sanremo, non oggi, perché ci sono già le polemiche, come sa, su Sanremo. Lei è preoccupato che diventi o possa diventare, come scrive oggi il giornale, il Sanremo in campagna elettorale, in un momento decisivo, il Sanremo del Partito Democratico in cui si farà politica? Io spero di no. Spero che il senso di responsabilità dovrebbe prevalere e spero che il festival metta al centro della sua attenzione la canzone, come ha detto più di una volta Fabio Fazio. Mm. Ma lei già in passato fece qualche polemica con Fazio, è preoccupato del nome Fabio Fazio come conduttore? No, anzi, io ho sempre tessuto le lodi di Fazio, lo considero un grande professionista e sono convinto che sarà in grado di contenere le intemperanze verbali della Littizzetto. Della Littizzetto, teme già qualche intemperanza verbale? Beh, insomma, la Littizzetto la conosciamo, insomma, è una che ci ha abituato a eccessi di ogni tipo, cioè, per carità, insomma, è simpaticissimo, eccetera. Credo che però ci si debba rendere conto che in campagna elettorale, insomma, c'è la par condicio, insomma, c'è tutta una serie di condizioni, come dire, che riterrebbero opportuno che star lontano dalla polemica politica. Cioè lei vorrebbe una Littizzetto che non facesse alcuna battuta sulla politica? Beh, insomma, questo conoscendo la Littizzetto mi sembrerebbe impossibile. Appunto. Insomma, ecco, che ci stia vicino ma senza entrare a gamba tesa. Ecco. Oppure faccio una battuta, non so, una battuta contro Berlusconi, una contro Monti, una contro Bersani, una contro Ingroia, una contro Grillo, così va bene? Beh, così, cioè, detta così dovrei rispondere di sì, anche se capisco che è una cosa molto limitativa, perché cioè, io credo che la par condicio vada calcolata un po' nel... in un periodo di tempo un po' più ampio, cioè non soltanto un single sketch, non limitato sketch. Esatto, nel festival, certo, se no è una cosa proprio quasi algebrica. Diciamo che Fabio Fazio la tranquillizza, la Littizzetto un po' meno, la Littizzetto la tranquillizza un po' meno, insomma, per quel che riguarda. No, c'è anche forse in arrivo, si vocifera, Crozza, che anche lui, a quanto a satira, non è male. L'ultima invitazione di Berlusconi l'ha vista? L'ho visto. Non in diretta, ma l'ho rivista, devo dire, è esilarante. Non era male. È esilarante. C'è da dire che al di là poi delle appartenenze politiche, no, eccetera. Non c'è dubbio. Ecco, Crozza la preoccupa? Onestamente, devo dire molto meno, perché mi sembra, più ecumenico nella sua satira. Nel senso che, così, spalma le sue battute un po' su tutti e quindi... credo che interpreti bene la par condicio. Invece pare non ci sia, cioè non ci sarà Benigni. Ecco, magari Benigni era un po' più duro, sarebbe entrato più a gamba tesa, questo la rasserena? Francamente sì. Poi Benigni c'era stato anche quando 2 anni fa, poi... Sì, ma non c'è la campagna elettorale. Allora. Come presenza al festival e anche come presenza in video. Anche recentemente, poi avrà delle trasmissioni anche su Rai 2, quindi credo che anche dal punto di vista della sua del dosare le sue apparizioni in video, cioè... meglio così. Ma lei è uno di quelli che pensava che andasse sospeso o posticipato il Festival di Sanremo? Beh, io sì, onestamente l'ho proposto, ma quando le elezioni erano previste il 17 quando il festival era previsto appunto in quella settimana, quindi ritenevo onestamente inconciliabile, ma per un fatto di programmazione, no? perché come lei sa la legge prescrive tutta una serie di trasmissioni di tribune politiche eccetera proprio a ridosso diciamo qualche giorno prima del festival, francamente mi sembrava inopportuno, ma per la programmazione RAI che contemporaneamente ci fossero elezioni e coso e Sanremo. Poi onestamente cioè, non è che mi sembra una cosa di lesa maestà, cioè rinviare il festival. Però adesso visto che le elezioni sono il 25 adesso va benissimo, adesso così va benissimo. Senta, ma secondo lei la RAI rispetta tutte le regole per quel che riguarda i compensi dei cachet, perché ci sono dei tetti di Fabio Fazio, degli ospiti eccetera, è tutto a norma? Perché qualcuno ha detto perché non si sa quanto guadagnano? Beh, il tetto c'è per secondo me sia pure con una forzatura per quanto riguarda i dirigenti. Tant'è vero che se non ricordo male, da agosto dell'anno scorso il tetto per le nuove assunzioni, i nuovi dirigenti è di quello della pubblica amministrazione di 300.000 euro sì. l'anno. E invece non rientrano i cachet di... Non rientrano i cachet degli artisti e dei programmi, eccetera, ma posso dire, possiamo dire tutto il contrario di tutto, ma la realtà è che la RAI non è una pubblica amministrazione, ma è una società per azione. Che svolge un'attività di servizio pubblico. È partecipata anche dal Ministero del Tesoro. Certo, quindi, non è partecipata, è posseduta praticamente quasi interamente dal Tesoro. E quindi? Ecco, ma solo per certi aspetti è assimilabile alla pubblica amministrazione e quindi fa le gare per appalti, beni, servizi, per approvvigionarsi di beni e servizi. Per il resto è un'impresa che sta sul mercato, quindi per il resto è un'impresa che è equiparabile a Mediaset e Sky. Ma no, è giusto che non si sappiano, pure non lo so, cioè, ce lo vuol dire lei sa quanto guadagna Fazio al di là del... Ma guardi, onestamente io non lo so perché... Fa parte del Consiglio d'amministrazione. L'ho detto sul giornale, poi sa... Quanto guadagna? Non lo so, io mi è sfuggito, cioè per questo festival... Onestamente, francamente, tra l'altro adesso ci hanno tolto anche un po' di poteri quindi al Consiglio, quindi mentre prima il contratto di Fazio veniva in Consiglio perché era di competenza del Consiglio, adesso non lo è più. Quindi il contratto di Fazio tra l'altro è stato fatto, se non ricordo male, un anno fa, più, e tu hai finito su tutti i giornali lo stesso. Questo sì, cioè. Però c'è un altro mistero invece, ci chiarisca su questo. Se uno digita www.contrattidiconsulenza.rai.it c'è questa schermata, io me ne ero già occupato in passato, è tornata la polemica, di tutti i compensi dei contratti di consulenza della RAI che secondo la legge del 2007 dovrebbero essere resi noti, e dal 2007 c'è scritto lavori in corso, presto verranno aggiornati. Perché non si può sapere della RAI tutti i contratti di consulenza? Beh, questo effettivamente credo che sia una cosa alla quale si debba rimediare. Perché dal 2007 però che... Perché, ripeto, io giustifico soltanto la riservatezza sui costi dei programmi e sugli artisti, perché sennò il mercato verrebbe alterato e quindi sarebbe indebolita. Faccia una battaglia in consiglio d'amministrazione. Prego? Faccia una battaglia in consiglio d'amministrazione, faccia per la trasparenza. Cioè di questo ne parlerò in consiglio. Noi lo diciamo ai tutti i consiglieri quando abbiamo la fortuna di averli in onda, però dal 2007 non si sblocca nulla. Le chiederei questo sul Festival di Sanremo: secondo lei è opportuno che ci sia Carla Bruni? Sa che alcune vittime della vicenda Cesare Battisti, dicendo lei da Premierdam, sto con le vittime a prescindere, guardi, io la ritengo assolutamente inopportuna questa presenza. Cioè lei non vorrebbe vedere Carla Bruni? È una marchetta commerciale che non finisce più, spero che venga gratis e lei viene soltanto per promuovere il suo disco. Non mi sembra che ci siano motivazioni artistiche così significative, perché non è che panorama artistico internazionale soffrirebbe senza la presenza di Carla Bruni. Questo è un giudizio artistico, ma al di là lei giudica poi, però inopportuno. Il ruolo che sembra aver avuto nella vicenda Battisti è veramente, come dire, molto ambiguo e molto discutibile. Io spero che, insomma, faccio mio l'appello di Cruciani e spero che Fazio, se durante la partecipazione al festival, la incalzi un po' per costringerla, tra virgolette, a fare prendere alla Bruni le distanze senza se e senza ma rispetto a questi atti di terrorismo. Ma addirittura sognerebbe invece che cambiasse idea, non la invitasse più? Questo certo, sarei felice. Sarebbe felice. Ma poi capisce, trovo che sia sbagliato che invitare la Bruni, per la quale non so se si è capito, non nutro nessuna simpatia, c'è una persona che ha orgogliosamente in più di un'occasione rivendicato il fatto di non essere più italiana. Insomma, beh, allora a quel punto, ecco, quasi leva giù meno della Littizzetto, proprio la Carla Bruni. Assolutamente no, ma la Littizzetto a me mi è simpaticissima. Però la teme un po', la Bruni proprio no. Senta, Verro, le devo chiedere questo. Allora, lei è consigliere di amministrazione della RAI e candidato alle attuali elezioni per il Popolo della Libertà per il Senato. Sì. Ma come mai? Ma com'è possibile? Lei è già stato parlamentare in passato, ha creato problemi col doppio ruolo che è incompatibile. Si è dovuto dimettere perché i ruoli sono incompatibili. Ho capito. E adesso ci ricasca, cioè si ricandida. Sa già che si mette in una situazione di incompatibilità. Poi è chiaro che poi mi dimetterò da consigliere nel momento in cui seguirò le prescrizioni della legge che dice appunto che essendo incompatibili, quindi mi dà dei tempi per scegliere. Lei corre già per una poltrona che sa che in caso di elezioni la porrebbe in una situazione di incompatibilità come è già successo in passato. Non le sembra francamente un po' inopportuno farlo? No, perché francamente, allora, io con la stessa serenità con cui mi sono dimesso l'anno scorso da parlamentare, anche questa volta farei il percorso inverso dimettendomi da consigliere d'amministrazione. È cambiato dall'anno scorso adesso, è cambiato il mondo, nel senso che è cambiato completamente lo scenario, il governo tecnico ha totalmente cambiato la governance della RAI, sì, cambiando surrettiziamente la legge Gasparri. Poi questo governo tecnico è sceso in campo, quindi perdendo il suo requisito di terzietà. Adesso sta facendo un po' campagna elettorale, giustamente, cioè lei è anche candidato e quindi... No, non sto facendo campagna elettorale, sto soltanto dicendo che il clima è talmente cambiato in azienda, per cui paradossalmente le dirò che le stesse ragioni che un anno fa mi spinsero a lasciare il Parlamento per restare in RAI, adesso mi spingono a fare il passo opposto. Quindi lei adesso rimarrebbe in Parlamento, lascerebbe il CDA della RAI, quindi non vede nessuna questione, come dire, perché le hanno detto si dimetta subito dal CDA della RAI. Consenta, non si dimettono i magistrati che continuano. Si mettono in aspettativa almeno. Non continuano a fare il magistrato durante la campagna elettorale. Ho capito, ma sono dipendenti dello Stato, è una cosa leggermente diversa. Io non sono dipendente della RAI. Lei si definirebbe amico di Berlusconi? Beh, certamente sì, lo conosco da 43 anni. Quindi insomma, no, perché si dice la RAI è politicizzata, però insomma. Cosa vuol dire? la RAI è politicizzata, tra virgolette, per legge, perché la RAI di consiglio d'amministrazione sono nominati l'editore di riferimento della RAI è certamente il Parlamento. E secondo me, io credo che sia una cosa buona, saggia e giusta, perché è facile dire fuori i partiti, fuori la politica della RAI, e ho capito, ma li sostituisce chi? Se il progetto è far uscire la politica per far entrare le banche, la finanza, i poteri forti, i professori, eccetera, ma tutta la vita la politica. Un'ultima domanda è questa: il presidente della RAI, Anna Maria Tarantola, un super testimone del Monte Paschi Siena l'ha tirata in ballo dicendo: guardate che era lei all'epoca a Banca Italia che ricevette la famosa ispezione di Monte Paschi. Secondo lei ha un ruolo, pensando al passato e attuale, che deve imporre qualche tipo di chiarezza alla sua presidente Tarantola? Ma guardi, io la conosco abbastanza poco, per quel poco che la conosco è una persona molto rigorosa, molto rigida e molto precisa, quindi immagino che anche con questi requisiti abbia svolto il lavoro in Banca d'Italia anche allora. Perfetto. Insomma, voglio dire, ci sono delle inchieste in corso, sì, certo, delle indagini, certo, eccetera, quindi credo che le cose siano separate, cioè... No, ma assolutamente, volevo sapere un suo parere. Intanto la ringrazio, ovviamente in bocca al lupo per la campagna elettorale, questo grazie, anche per Sanremo. Grazie, vuol dire chi vincerà Sanremo, no? Prego? No. Chi vincerà Sanremo vuol fare il suo pronostico? No, guardi, onestamente non lo so. Non so neanche chi canta. Io spero tanto, spero che non lo vinca la Bruni, era una battuta, perché insomma, non è in gara. Quindi, questo non è in gara. Spero che vinca una bella canzone e che tra un anno, sì, se riparleremo ancora di Sanremo, ci ricorderemo chi è stata la la canzone che ha vinto. Ah sì, che ogni anno in genere è difficile, infatti, grazie. Se lei mi dice che ha vinto l'anno scorso, non me lo ricordo. No, neanch'io. Grazie ad Antonio Verro per essere stato con noi, consigliere di amministrazione della RAI, candidato per il Popolo della Libertà al Senato. Noi parliamo di giustizia tra poco. Tra sentimenti e ragione, tra rispetto per le vittime innanzitutto in tanti episodi di cronaca e anche il dovere giusto di recuperare gli autori dei crimini, insomma tra amnistia, desiderio di amnistia e tra rispetto di Caino, ma con il rischio, dice qualcuno, di dimenticare che la vittima, Abele, deve essere tutelata anche lei. 24 mattino. Quando sono le 8:36 minuti, eccoci qua. Abbiamo titolato questa parte della trasmissione Giustizia tra ragione e sentimento. Di cosa vogliamo parlare? Allora, beh, sapete, da giorni è tornata anche per le parole del Presidente della Repubblica Napolitano il tema dell'amnistia, no? L'ipotesi di un'amnistia. E ogni qualvolta riaffiora questa ipotesi, anche la nostra segreteria è stata inondata di telefonate di persone che dicono: ma insomma, c'è troppo buonismo in Italia, non si vuole mai punire in Italia. Ieri Stefano Zecchi se lo chiedeva proprio su Panorama: perché abbiamo tanta condiscendenza verso Caino? Perché siamo così disposti a comprenderne le ragioni al punto da trascurare Abele e le sue sofferenze, cioè vittime e carnefici? Troppo buonismo, si chiedeva Zecchi, favorisce i cattivi forse a scapito degli incolpevoli, e raccontava due storie. Una, quella di Elisabetta Ballarin, delle bestie di Satana, che tra l'altro ha compiuto l'omicidio di Mariangela Pezzotta, e che di recente, scontata la pena, è stata premiata dal Comune di Brescia con una borsa di studio. E poi il caso a Aosta, dove un rumeno a bordo di un'auto ha travolto due mamme con i loro neonati e qualche giorno prima aveva confessato una rapina ma non era stato fermato. Allora, c'è troppo buonismo? Di questi due casi e dei temi che sottendono questi due casi ne vogliamo parlare con due protagonisti che ringrazio. Intanto il procuratore capo di Aosta, Marilinda Mineccia. Procuratore, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere qui con noi. Saluto anche Silvio Pezzotta, che è il padre di Mariangela, vittima appunto di Elisabetta Ballarin e delle bestie di Satana. Buongiorno signor Pezzotta e grazie. Sì, buongiorno a lei. E grazie di essere qui. Allora, procuratore capo, intanto, al di là della questione tecnica, se vuole, di spiegarci del perché questa persona non era stata fermata, però intanto lei condivide l'analisi di Zecchi, per cui c'è tanto rispetto per Caino e poco per Abele in Italia? Il discorso generico non è molto facile sempre, perché io credo che quando giudichiamo dei fatti che accadono alle persone bisogna capire quali sono tutti gli elementi del caso concreto, che ovviamente variano da situazione a situazione. Allora, partendo per esempio dal caso di Aosta, ecco, è importante dire che qui è stata applicata la legge, in quanto questa rapina che era successa ai primi di gennaio, era rimasta un fatto molto grave su cui la polizia stava lavorando, ma dove appunto non c'erano degli elementi certi per poter appunto fermare qualcuno. Dico fermare perché l'arresto in flagranza è solo possibile quando viene colta una persona nell'immediatezza del fatto. Quindi è un'impossibilità tecnica cioè la normativa non dava la possibilità alla procura di... La normativa, ecco, questo è importante, il fermo, cioè quello che viene fatto dopo un certo tempo che è stato commesso il reato, è possibile se c'è pericolo di fuga e gravi indizi di colpevolezza. Ora, qui c'erano dei sospetti. In procura si presenta 10 giorni dopo questa persona, questo rumeno, ragazzo rumeno che di 20 anni, e confessa e collabora. Quindi ci sono due elementi importanti, perché tra l'altro lui vuole offrire agli inquirenti la possibilità di verificare attraverso la sua collaborazione anche se dice la verità rispetto agli altri che noi stiamo, infatti ora si sta sempre lavorando per trovare anche gli altri. Sì, e questa persona che confessa e collabora poi è la stessa persona che si rende protagonista ai lui, insomma, e soprattutto 3-4 giorni dopo di questo incidente. È un fatto che sottolineo è di natura comunque diversa, perché uno è un fatto doloso gravissimo, ma è chiaro, l'altro ha fatto un incidente grave, ma e ha travolto appunto queste persone. Però lei che ne pensa anche del come sa, la gente comune anche ad Aosta ha protestato, ha alzato la voce a dire: ma com'è possibile? Cioè, appunto, io lo ripeto, questa immagine, cioè, Abele si sente un po' offeso. Abele, ecco. Ecco, però ritorniamo solo un attimo su questo punto. Nel momento in cui questa persona viene confessa e collabora ed è presente, tra l'altro una persona con un'attività stabile in Aosta, con una famiglia da tempo, non c'è nessun elemento per pensare a un suo pericolo di fuga. Quindi comunque il fermo non si può fare, non solo, ma poi, e questo è anche l'aspetto importante, evidentemente anche quella è una persona che, alla quale bisogna dare anche una possibilità di dimostrare che vuole evidentemente reintegrarsi, e quindi bisogna un attimo mettere al vaglio anche il suo modo di comportarsi. Però lei, procuratore, non so, mettiamo in caso in America, uno va da uno sceriffo e dice: sì, è vero, io ho confesso, sono l'autore di questa rapina e vi aiuto. Secondo lei viene lasciato libero di andare in giro? Ma guardi, è giusto che la normativa garantisca questo, oppure ci vorrebbe un po' più di durezza? Ma intanto, secondo me, bisogna anche valutare anche lì caso per caso, perché ovviamente non tutti i casi sono uguali. È chiaro che se una persona viene confessa un omicidio, al di là del fatto che ci sia o meno il discorso del fermo, si può comunque chiedere una misura al giudice, perché anche questo è importante che i cittadini lo sappiano. Il pubblico ministero non può arrestare autonomamente, deve chiedere ad un giudice, chiaro, che la deve misura. Convalidare, chiaro. Ecco, no, no, convalidare, una cosa diversa. La convalida è quando io fermo, quando c'è il pericolo di fuga, mentre invece la richiesta al giudice della misura è una cosa che deve essere fatta. Naturalmente, se ci fosse un caso gravissimo, uno lo può fare anche in tempi stretti. Poi si valuta anche chi c'è davanti a noi, perché bisogna vedere, questo ha dei non precedenti, c'è dubbio, l'età. Ecco, forse sì, no, ma per carità, non è mi intende, procuratore, non è un processo, se mi passa questa parola, no, al capito. Comportamento della procura, ma è un voler anche discutere se questo sistema non sia un sistema un po' troppo, che dia un po' troppe garanzie o meno garanzie a chi si sente vittima e poi protesta e vede, magari sarà una vulgata, tutti questi delinquenti che vanno in giro liberi, se è un luogo comune non lo so, oppure se è un sistema che dà garanzie a tutto il mondo. Allora, noi abbiamo un sistema dove, e io credo anche giustamente, la custodia cautelare, perché questa è custodia cautelare, cioè prima del processo, evidentemente viene valutata in modo diverso dalla custodia definitiva alla fine del processo. Ora, per poter limitare la libertà personale, che è un bene così prezioso, ci vogliono degli elementi, ma diciamo tutta una serie di cautele, e questo mi sembra che sia di un sistema civile. No, ma questo senza dubbio. Procuratore, mi faccia sentire le parole di Silvio Pezzotta. Silvio Pezzotta, ogni volta, a me dispiace perché per lei rivivere la tragedia che ha già vissuto profonda della uccisione di sua figlia. Lei è diventato famoso per aver seguito anche un percorso di, posso usare la parola, perdono nei confronti di Elisabetta Ballarin, signor Silvio? Il perdono è una parola grossa, l'ho già detto, perdono. La riabilitazione è un'altra situazione. Lei, alla domanda in Italia c'è troppo rispetto per Caino e poco per Abele, condividerebbe o come risponderebbe? Io mi associerei al procuratore quando ha detto che ci sono casi, ogni caso fa storia a sé. Nel caso della ballerina, effettivamente 23 anni di carcere per una situazione, il suo compagno che ne ha fatte 10 volte di più gli ha dato 10 anni. Ecco, ci sono delle situazioni che, come ha detto il procuratore, vanno valutate caso per caso. Non penso che ci siano né troppi Caini né troppi Abele. Purtroppo la giustizia nostra è questa, non è che ce la inventiamo. Quando lei ha sentito della borsa di studio, del recupero di Elisabetta Ballarin, che so che studia, sta cercando un suo lento recupero verso la normalità, che sensazione ha provato? No, io ho sempre detto, ma non solo su Elisabetta, ma da sempre, che i ragazzi vanno aiutati, anche perché lei aveva meno di 18 anni, era una larva schiava della droga eccetera, ne è uscita. Io spero che come lei ce ne siano tanti altri che prendono una strada diversa, con un percorso diverso, perché il carcere, l'ho detto, ti può uccidere definitivamente o ti può anche dare un'altra strada. Diciamo, però, posso intervenire solo un attimo, perché questo discorso che lei sta facendo è delicatissimo ed è un problema che anche noi magistrati viviamo in modo molto, a volte drammatico, perché dovete pensare che ci troviamo a volte di fronte a fatti gravissimi, però anche di fronte a delle persone. Allora io ho personalmente credo in questo: il magistrato e comunque tutti noi dobbiamo valutare dei comportamenti, e quando questi comportamenti sono negativi o sono illeciti, ovviamente ne dobbiamo, con tutte le garanzie, far seguire le pene. Però questo non vuol dire giudicare il fatto, non vuol dire giudicare la persona. Sì, voi giudicate i comportamenti. I comportamenti. Cosa vuol dire? No, che bisogna dare una chance sempre comunque alla persona di potersi modificare e cambiare. Ma questo sicuramente, però, procuratore, devo dare le informazioni sul traffico e ripartiamo da qui, proprio da un'altra considerazione che fa Stefano Zecchi, secondo me pertinente, su Panorama ieri, cioè che una società un po' moralmente insicura, nella quale si sono persi alcuni valori, diventa una società che empatizza un po' troppo con gli autori dei reati e non con le vittime. Eccoci qua, le 8:48 minuti, siamo con Silvio Pezzotta, che è il padre di Mariangela, vittima delle bestie di Satana, e con il procuratore capo di Aosta Marilinda Mineccia. Allora, ieri Stefano Zecchi, come dicevo, scriveva questo su Panorama: il padre, qual è il padre che mette limiti al comportamento del proprio figlio? È il padre che ha un'idea di un'educazione, magari sarà anche sbagliata, ma crede in essa, ne fa un principio che il figlio deve seguire. Mentre invece la nostra società, scrive Zecchi, rispecchia invece quel padre che, non sapendo che pesci prendere di fronte alle trasgressioni del figlio, trova più conveniente giustificare anziché punire, preferisce non assumere posizioni precise e il perdono gli appare come una facile scorciatoia per il quieto vivere. Lei, procuratore, sottoscriverebbe queste parole, diciamo, da appiccicare al sistema giustizia in generale, oppure no? Ma ripeto, qui dobbiamo distinguere il sistema giustizia, un discorso sociologico o i casi concreti, perché per chi, diciamo, ha una funzione istituzionale bisogna proprio chiarire bene questi aspetti, altrimenti si rischia di fare un po' di confusione. Secondo me è chiaro ed è giusto il discorso di sottolineare che il vedere anche gli aspetti personali di chi commette il reato non deve, o comunque nell'educazione il giustificare il figlio non deve arrivare a fargli fare tutto questo, tutto quello che lui vuole, e quindi diciamo pensare a un discorso di mancanza assoluta di regole. Questo è vero, è un grave dramma della nostra società, il fatto che sotto l'idea della giustificazione personale non esistano più regole e limiti che invece vanno assolutamente messi e richiamati, e questi possono essere occasioni in cui è giusto riflettere sull'importanza appunto del dover tenere. Dal punto di vista tecnico, lei ci ha spiegato, in questo caso di Aosta, dal punto di vista tecnico proprio dell'applicazione della norma, non c'è nulla da eccepire da parte del comportamento della procura, ma secondo lei c'è anche ce l'ha detto anche il giudice, peraltro, nel suo Però lei vede la reazione della gente e si sente, tra virgolette, con la coscienza pulita dal punto di vista della procura, dire: noi abbiamo applicato quello che c'era da fare, e la gente protesta, la gente io la capisco, perché giustamente questo fatto dell'incidente grave dei due bambini, il fatto che noi abbiamo anche temuto in quel momento per la vita dei bambini, e infatti poi il quadro sul pericolo di fuga è mutato e abbiamo firmato la sera stessa il fermo. Quindi questo l'abbiamo fatto anche noi, però io vorrei sottolineare che al di là degli aspetti emotivi, il fatto doloso della rapina con l'incidente stradale sono scollegati. Sì, sì, sì, non c'entra niente. Tant'è vero che mentre pensavamo all'inizio... Sono scollegati, ma la gente pensa se fosse stato fermato non, sì, non avrebbe compiuto l'incidente. Però questo è un discorso, diciamo, che allora si può dire, come quando si dice, beh, ma se quella persona, non lo so, non fosse nata, non avrebbe sì. ucciso. Cioè, è chiaro, un discorso per assurdo. Però mi lascia la per un attimo da ancora da Silvio Pezzotta. Pezzotta, le vorrei chiedere questo. Lei più volte ha detto, ha usato questa immagine molto molto forte, molto impattante, cioè le porte di casa mia per Elisabetta, cioè l'autrice dell'assassinio di sua figlia, saranno aperte se ci saranno le condizioni un domani per... Ma ha mai avuto segnali dall'altra parte, cioè da parte di Elisabetta Ballarin a riguardo? No, i segnali non ce n'è e non mi interessa il segnale. Dall'altra parte il segnale è partito perché c'era ci sono delle motivazioni che penso siano valide, era solo questo. Poi il tempo darà ragione o torto, non lo so. Però questo è un suo percorso molto personale, sul quale secondo me nessuno può entrare a sindacare, cioè il suo percorso è un percorso che lei porta avanti in questa direzione e nessuno può dire nulla. Ma lei si è sentito e si sente tutelato, diciamo, dal sistema giustizia, dallo Stato, che poi in quel momento interveniva come giudice, nel senso di... Ma guardi, l'ho detto all'inizio della trasmissione, quando a Elisabetta gli è andati i famosi 23 anni e al compagno che ha sulle spalle un po' di omicidi, 10 anni essendo un collaboratore. Certo che un po' di amaro in bocca ti rimane, io non è da oggi che non condivido queste situazioni, perché passano, poi è chiaro che diventa un luogo comune che la giustizia tante volte pecca in determinate situazioni, ma siccome che sono i codici che prevedono questo momento, non è che possa essere durante e dopo la sentenza chiunque non è soddisfatto. Sì, sì. Sì, diciamo, semmai è un'applicazione del codice, il codice che andrebbe cambiato. I codici che ci sono, non è che ne inventa il magistrato. No, è chiaro, ma applica le leggi che ci sono. Fatemi sentire un ascoltatore, Carlo, dalla provincia di Pisa. Purtroppo c'è tempo solo per un ascoltatore. Carlo, buongiorno. Buongiorno, io sarei per introdurre due cose in ordinamento. Primo, il reato di delinquente abituale. Si sente troppo spesso di gente che fa 5, 6, 7 reati e è sempre in libertà. Io dico questo, ci mettiamo d'accordo sul numero, al quarto, al quinto, anche se al quinto si è rubato la caramella al bambino, vuol dire che te... Come in America, in California, come c'è three times out, no? Cioè tre volte uno ruba una mela, e lei cosa farebbe? Tre volte uno che ruba una mela, basta. Non esce più, perché vuol dire che abitualmente questa persona è nata per delinquere. E poi un'altra cosa, sicuramente risolverebbe tutti i problemi. Un'altra cosa, introduzione della cauzione. Delinqui, fai qualcosa in attesa del tuo giudizio, in attesa che il tuo procedimento venga messo in atto, mentre puoi uscire, paghi. Insomma, lei proprio vuole mutuare questi aspetti dagli Stati Uniti, evidentemente. Carlo, io la ringrazio e qui mi fermo con il suo parere. Vi ringrazio davvero per essere stati con noi, il procuratore capo di Aosta Marilinda Mineccia e Silvio Pezzotta. Come sempre potete riascoltare tutto su radio24.it. Ci fermiamo qui, è venerdì, e quindi da Miriam Lucchetti, Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi vi diamo l'appuntamento insieme al tecnico che non sarà più Carmelo Lauricella, ma torna all'Alpino, Peter Pescafè, lunedì, l'appuntamento è sempre alle 6.30. Seguiteci su Twitter, io sono Alino Milan, così mi trovate, potete seguirmi e ciao, ciao, ciao. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 24 Mattino.